Siamo vetro sottile, siamo duri a morire. Siamo fiori in un campo pieno di mine. Siamo come una terra senza confine, nati per essere, non per apparire. Siamo esattamente quello che abbiamo da dire e serriamo le file quando il mondo ci ostile. Della nostra passione non vediamo la fine. Tutto questo da sempre lo facciamo con stile, lo facciamo con stile. Siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle. Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle. Noi siamo scintille, siamo dinamite. Non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. In ogni storia che conosci siamo a lieto fine. Siamo io e te. E slogan più bello non c'è, più forte di io e te. E amore più grande non c'è, di io e te. Siamo un passo in avanti, nessuno dei tanti. Siamo vasi da sempre comunicanti. Siamo esattamente quello che non c'è da capire, che è così naturale che non lo può impedire, yeah. Siamo sassi lanciati contro il cielo che bucano la notte e arrivano alle stelle. Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle. Siamo scintille, siamo dinamite. Non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. Di ogni storia che conosci siamo il lieto fine. Siamo io e te. E slogan più bello non c'è, più forte di io e te. E amore più grande non c'è, io e te. Tutte le cose che ho visto al mondo, non c'è niente di meglio che io e te. Tutte le storie che hanno raccontato, di nessuno io credo più di io e te. Siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire. Di ogni storia che conosci siamo il lieto fine. Siamo io e te.